Voi riuscite a prevedere una frana? Allora, prevedere è una parola molto pesante. Diciamo, noi siamo ingegneri, quindi il nostro compito è fornire dati di spostamento. Poi saranno i geologi e i geofisici che dovranno dire se questo numero effettivamente è un presagio, un preludio di qualcosa di brutto o meno. Ecco, per esempio su Giampilieri, sappiamo tutti cosa è successo, diciamo, nel Messinese, abbiamo fatto un'analisi storica con dato già disponibile. Dal 1992, quindi andare a vedere a ritroso nel tempo che cosa si muoveva. L'analisi è stata senza dubbio interessante. Adesso questi dati sono oggetto di indagine e di interpretazione da parte di un team di geologi a Firenze. Comunque, Ferretti, mi pare di poter riassumerla così, insomma, al di là delle tecnicalità. La tecnologia oggi, la tecnologia disponibile oggi consente un monitoraggio del territorio e quindi anche, dei dissesti del territorio con una precisione addirittura al millimetro. È così? Allora, per certi versanti sì, sicuramente sbaglierei a negare questo. Sicuramente ci sono delle tipologie di spostamenti che noi vediamo meglio e altre meno. Però per dirla in parole semplici, bisogna partire da quello che abbiamo oggi. Quindi noi stiamo lavorando per il Ministero dell'Ambiente insieme alla società Igeos per la mappatura dell'intero territorio nazionale e questo sicuramente sarà un primo passo verso una prevenzione, insomma.